Europa 24. Saluto da Anna Migliorati. 9 maggio, oggi festa dell'Europa, quest'anno in clima decisamente elettorale. L'Europa festeggia a Firenze nella più importante giornata di The State of the Union. A Firenze ci sono il Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, i principali candidati alla sua successione, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz e Guy Verhofstadt. Il tema principale è stato nei dibattiti di questa mattina, quello ovviamente dell'euroscetticismo e appunto del voto ormai imminente. L'Europa è ad una svolta, ha detto Barroso. Parte dall'Italia, precisamente da Firenze, alla kermesse annuale State of Union a Palazzo Vecchio, la controffensiva che vuole fermare l'ondata di euroscetticismo in crescita in molti dei 28 Stati membri. A 2 settimane dalle elezioni europee, nel giorno della festa dell'Europa, il presidente uscente della Commissione, José Manuel Barroso, interviene a difesa dell'euro, la cui crisi esistenziale dice è ora risolta, ma soprattutto a difesa di Bruxelles. C'è una situazione in cui le persone comuni, la gente della strada, pensa che i loro leader non siano in grado di risolvere i loro problemi e si rivolta contro i partiti, contro i governi, contro le istituzioni europee. E lo fanno ancor di più perché è tipico nel nostro sistema che nei vari paesi, quando funziona qualcosa, se ne prendono il merito e quando non funzionano, danno la colpa a Bruxelles. L'imminente silenzio pre-elettorale imporrà lo stop ai sondaggi, ma in Gran Bretagna gli euroscettici sono a un livello di allarme rosso pari al 38%. In generale, secondo Poolwatch, i 7 partiti anti-europei, tra cui Lega Nord, dovrebbero riunirsi in un unico gruppo sotto la regia del Front National di Marine Le Pen e conquisterebbero nel complesso almeno 38 seggi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E giornata che continua a Firenze, allora andiamo da Enrico Brivio. Sì, dallo splendido cuore dell'Europa rinascimentale, il palazzo vecchio, dal Salone dei 500, Matteo Renzi ha tracciato la sua visione del percorso del semestre europeo a guida italiana che partirà il 1 luglio. Ha prospettato un'Europa che punti su crescita e occupazione e si preoccupi di salvare non solo stati e banche, ma anche la classe media e i lavoratori, ma anche un'Europa che deve dare respiro ai diritti dei cittadini con maggiore trasparenza e accountability, che punti su digitalizzazione e innovazione. Un'Europa aperta al mondo, che non si ripieghi su se stessa e che sappia giocare un ruolo in Ucraina e non volti la faccia a drammi mondiali come il rapimento delle ragazze in Nigeria e le crocifissioni in Siria. Ma sentiamo le parole di Renzi. La crescita e l'occupazione come valori costitutivi dell'Europa, non solo il rigore e l'austerità. La crescita e l'occupazione, giusto salvare gli stati, giusto salvare le banche, abbiamo bisogno di salvare la classe media italiana ed europea, le famiglie italiane ed europee. Quindi tra le strade opposte di chi resta vincolato a un'idea tutta finanziaria di un'Europa austera e invece chi propone di uscire dall'euro ma senza offrire delle prospettive, Renzi propone l'immagine invece di un'Europa che si sa riformare e di un'Italia che dovrà programmare le riforme in Europa e saprà essere credibile solo se prima avrà varato delle riforme in casa. E quindi sì, tutto ciò la tartaruga con la vela dei Medici, ovvero affrettarsi con circospezione e prudenza. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E grazie. Intanto l'Unione Europea, la Russia e l'Ucraina terranno lunedì una nuova riunione tecnica sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas russo. La riunione tecnica coinciderà con un incontro a Bruxelles tra i ministri europei degli esteri che è in agenda la crisi ucraina ed eventuali nuove sanzioni. Sul fronte economico, altre notizie di oggi. Per quanto riguarda l'Europa, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha alzato da negativo a stabile l'outlook sul rating sovrano del Portogallo, che viene confermato a BB, dice l'agenzia di rating. C'è stata piena attuazione degli impegni previsti dagli aiuti dell'Unione Europea e del Fondo Monetario. Ma parliamo anche di cinema. Prima di chiudere, con 8 milioni di biglietti venduti nel 2013, Sole a Catinelle con Checco Zalone è il secondo film europeo per ingressi venduto nel 2013 nel vecchio continente, dopo la produzione anglo-americana dei Miserabili. Emerge insomma dal rapporto dell'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo del Consiglio d'Europa che l'Italia è l'unico grande mercato del cinema europeo ad aver resistito al calo della vendita biglietti nel 2013, tendenza che sembra confermata per il 2014. E allora per il momento con l'Europa ci fermiamo qui, ancora un saluto da Anna Migliorati, vi ricordo Europa che vi aspetta come sempre ad Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.